Attenzione, Gian Maria! Qui si può passare un po'. E chi è? Il bambino laterale! Eia! Hola, chi è? Attenzione, Gian Maria! Buonasera! Ehi, ma te vuoi andia? Saperi! Gian Maria! Un cavallo si può pigliare a Fabissetti? Certo, che il cavallo bisogna prenderlo a farlo a bistecche e a fettine! Io lo sapevo che già combinando, accompagnare i bizzini, ritirarli all'una e mezzo, mangiare a voi i nomi. E cosa vuoi Giamba? Sempre a mattessi minestra, tratta se seria, non va seria. E a te credo, ma se piace è meglio così sì. No, no, se ne hanno gioco rientra due o non me la vende, se ne offendeva va. No, la messa da stasera l'ha messa l'acqua, non da stanotte, da stasera. Però no, ha visto che i nonni ancora non offende nulla. E ci arrivi, se la bigliemmo, se no pazienza. E a ti credo. E a ti credo che se la bigliemmo. È meglio così, se no ti infondi meglio così. Infatti. Sei se ora di va. Infatti ma giocava dura macchina, proprio apposta baffaeva. A chi so che ogni volta che mi lavo la macchina faceva. Infatti, è tutto se così, un po' godeva a rodare lo vivo. Infatti, ve ne voleva, purtroppo, ci vuole parecchio, ma non è neve a gennaio l'ha fatta. Anche a dicembre l'ha fatta nei Monti Alti, Limbara, Forni e nelle piste del Becoso, Nuoro, le ha fatte in quei posti lì. E purtroppo già è così. Troppo è così, non ti accontentiamo mai, ma già arrivi pure no, infatti, infatti è così. Da, cosa volete di Giorgio Mari? Non ti accontentiamo mai noi, ma speriamo che Sant'Antonio lo possa fare. Sì, ma già vedrai che se arrivi, arrivi stanotte o domani a Manzano. Ma vedrai che già qualche cosa era a fasi. infatti è sempre fai la graduate bruio la contentazione un po' garillo fai mai detto vabbè non mi arrabbia non virai. vabbè ci arrivi Zirabellè ma io non arrivi pazienza io sono qua. Chi è? Ecco, sento nel fogare di scariche di temporale. Infatti, speriamo che non porti a drone, che se no, un signorino e non di simili delle cose di drone, dimmi. Io già faccio le cose che carregheggia in terra, carregheggia. Sì, me la sono fatta. E beh pure me l'ha giovata. Speriamo che figlia che non entri ai nomi. Ah no, me la sono fatta io. Me la sono fatta e ho visto che funziona. Lei un picchetto di ferro l'ha giovato. Infatti, così vuole così, infatti mi ha giovato io, ce l'ho lì, vicino al termosifone ce l'ho quasi. E infatti, così, è così, no, ho visto che non me ne sta dando più scossa. Ok, Giovanni, ciao. Perché? Buonasera, ciao Giovanni, ci sentiamo, ciao, siamo tutti in casa. Avanti tutto, buonasera, ben fatto. Sì, c'è qualcosa con Cami, buonasera Marino. Certo, babbo di tanto, siamo in treni. È impegnato, pure, mezzo incasinato. Non stavo bene questi giorni. Ho avuto quell'intervento, ma non stavo molto bene, stavo un po'. Mi sono strano, adesso l'ho vista anche domani sera, adesso vediamo, là. Ok, tutto a posto, tu, sì. Niente in ordine. già è tutto a posto. Se ne avassi. Dai, Gio Maria sta chiudendo. Ciao, Gio Maria. No, ha chiuso Gio Maria. Ha chiuso perché dice che doveva venire gente e ci sentiamo domani. Ok, va. E allora, come andiamo, tu? Come ti vuoi andiamo? A piedi e in macchina. Macchina e a piedi. Sì, vabbè, stiamo andando, sì. Una cosa all'altra, stiamo andando, sai. Meglio così, dai. Tutto a posto comunque, meglio che sono contento, dai. E un cucciuccio, accucciato, Come l'ho accucciato, vicino alla Vacconi. Io si intende, i rampi, io si intende. Infatti. Uiuia. Andemmo e andemmo. Ma sento qualcosa, preparazione, sotto, qualcuno parlando, sento. Non mi sbaglio. Sicuramente quelli del 10. No, non è roba del 10 questo, non è roba del 10, no. Era poc'anzi, vero, ero solo le frequenze, sta ascoltando, ma e poi ho girato, senti quanta gente sotto, mentre stavo durando, capito? Io non l'ascolto, io ascolto un bel di QRM e che sarriga di coso, di fulmini. Perché ha messo un po' di tempo brutto, ha messo. Vabbè, secondo come è uguale, secondo me è uguale c'è tempo brutto, secondo non è uguale, ma lascia fare, c'è tempo suo, dai. Infatti, ecco, da un bel che non fa di più Eva. Quando siamo? Dal primo di gennaio? Più o meno. Ascolta, Otto, quanto vuoi segnare? Sempre il solito. Aspetta un attimino. Mi gli occhiali, dai. Prova. se tu sei come me, anch'io sono un mezzo cibio, se sono chiaro che ho venuta, boh. No, che sì, Santiago Lode. Sì, va bene, dai, già va bene, anche un po' di umiltà, una cosa all'altra, e tanto, a tempo buono d'estate, per sentire, non la scendo giù perché la devo da controllare, c'ho l'ho sigillata, l'ho dal nastro, mi ha rovinato, fraseggato, non so, c'avevo la, dove c'ho la serpentina di rame, il rivestimento in plastica, mi ha tutto quanto mangiato, ora capo ne so, c'ha il gelo, il freddo, ora capo ne so, la scendo, diamo una bella pulita e ciccia, così piazza anche l'altra, ne ho procurato un'altra, ne ho dato e piazza anche l'altra, piazza all'altra parte però. Ti ha mangiato il capo, ti ha mangiato? No, il capo no, dove c'è la serpentina, diciamo, la bobina, è tipo un bicchiere grosso logicamente, e c'era questo bicchiere trasparente. Io da un giorno stavo guardando, è un po' strano, sono salito in effetti, era tutto quanto buccato, tutto mangiato, mancava tutto quanto, magari il gelo, il sole, quella cavolo ne so, ho preso, ho pulito bene la bobina, diciamo, e ho messo un po' di grasso da gallina e l'ho sigillato con il nastro, capito, intorno, per un'umidità. Se ne stato, lasciamo giù, vediamo una bella pulita, una bella girata e vediamo di fare quella specie di protezione, diciamo, dai. Mi sa che quella devi fare, mettergli del nastro vulcanizzante intorno e isolarla un po'. Sicuramente dal gelo e il sole si è fatto dure e si decide la plastica. Esatto, basta anche il cuore della bottiglia, capito? Certo, se lo trovo più grosso è meglio, capito? Il cuore della bottiglia, lo buchi, lo infili da sopra, io lo buchi, poi lo dici da sotto, capito? Però il cuore della bottiglia è molto sottile come plastica, un qualcosa di più grosso per tutto, ma adesso vediamo. Che contenitore di quella plastica dura ci vorrebbe? Quei contenitori dove c'è creme e cose che sono trasparenti, di quelli lì sono più duri, ci metti un coso di quelli, gli togli un pezzo di sotto e glielo infili. Adesso vediamo, adesso una plastica, adesso è stata un'occasione che era un becco questo affatto, intanto basta bucare al centro, non dove è chiuso, si buca al centro e si infila da sopra, si infila fino ad arrivare alla bobina, capito? E poi sotto lo isoli, lo chiudi, intanto l'acqua non va mai sotto, capito? E adesso vediamo. In estate, intanto organizziamo tutto, poi vediamo, dai. Infatti è così, conviene fare così, anche se no ti si leggerà la bobina, arrivederci. E appunto, poi, si chiamava da quando, insieme a Bacchisi, hanno saldato, ha fatto il cavetto nuovo là sotto, l'abbiamo aperto e fatto tutto nuovo. Voglio un peccato, perché siccome è nuova l'antenna, noi siamo tutti vecchi. E solo quello che si è rovinato, capito? E adesso vi ho dato l'idea, adesso quando vado su a fare la plastica, cerco di procurare qualche di quei contenitori che stavo dicendo, dai. Quindi anche se non è trasparente, non è forse nulla, interessante portare la bobina. Infatti, conviene fare così, conviene fare, perché tanto non riesco a venire, se trovi un coso, io ce l'ho gettato l'altro giorno, un coso giusto era quello lì, era bucavi sotto, lo facevi a misura. Esatto, ma già il becco, già se mi dato l'idea, mi dato anche io, pensavo nel culo della bottiglia, ma la bottiglia è troppo sottile come plastica, capito? Morbida e sottile, quella è il primo sole, il primo gelo lo spacca, invece quella sono più robusti come plastica, capito? Come plastica è più robusta e tutto quanto, se mi dato l'idea. Adesso intanto faccio la plastica e qualcosa già recupero, dai. Infatti, se no trovi una specie di bicchiere per tagliare un fondo, è vero buoni, anzi buchi il fondo, e io lo metto dentro anche un bicchiere di vetro, mi va benissimo. E di quei vasi già, becco, già vasi già unico, no? Ci ho già pensato di quello lì, ci avevo già pensato, ma adesso vediamo, se procuro con la pesca grossa va bene, se no faccio quel sistema. Tanto lì, una volta buco al centro, poi a lui lo prendo e ce lo infilo da sopra, capito? Infatti, tu devi fare così, ci verdeci, tu lo metti a posto ed è fatta. Adesso vediamo, dai. Ma lo vediamo, via, e va bene. Tutto l'altro, tutto ok, sì. A voglia. A voglia c'è a posto, cazzo. Già andare. Questo, sentite adesso. Ho estratte. Sbatter sono. Ho detto che arrivano gli sbatter anche. È bussato. Ha visto la telecamera, se per la tua più adesso gli ho messo anche un'altra all'altra parte dove c'è il Sirio. Quella che hanno tolto d'acqua l'hanno messa lì. Ah, perché sei staccata l'hanno? Sì, già. Un mese e mezzo l'hanno dentro. In località. E vanno da... Adesso appende il argomento prima, arrivi, lo mangiano, carregheggiano e scendandano. Che schifo, cazzo. Ma lascia fissa la telecamera, cazzo, sacchi, che ti ho chiuso. Non so, vabbè, c'è un solito già ne stanno pensando parecchie. Ah, c'è un solito già pieno all'interno. Ma quello lì come la sciaglia, intanto funziona con la DSL, capito? C'è il trasmettitore, trasmette il suo comando e così via. Sono proprio filo chiuso e basta. Ne arrivano parecchi, arrivano da sorso, mi arrivano. Arrivano e scaricano qua. Io l'altro giorno stavo andando a prendermi il tra lì, c'era questo, ho detto scusi ma cosa sto facendo? Sto buttando la bombetta, ma lei non è di qua, lei sta arrivando da sorso. Guardi che c'era la telecamera mi. Grazie a tutti, ma di tu. Se gli piace a lei pagarsi 150 euro di multa, a me va bene. Grazie a tutti, come al solito, grazie a tutti. Oia, qua è. Adesso hanno anche messo gli orari, che io c'è solito che ho stato tutti gli adesivi nei cassonetti, come sempre, dalle 13 alle 24, perché hanno messo i cassonetti senza gli orari. E la gente approfittava tutte le ore, i cassonetti vuoti, dopo un'oretta c'erano i cassonetti strappieni. Adesso si getta dalle 13 alle 24. Ehi, guarda, a tutte le ore stanno buttando acqua, e no, che iniziano da, e chi mi iniziano dagli getti di Manzano? Ci vengono, è un faggio, ci vengono, gli getti di Manzano e Lampani. Anche quando c'era la telecamera, amico, stanno buttate alle 7 del mattino. Uno con un furgone agli getti di Manzano, quando vedeva la telecamera, e non si è più visto. Guarda, Eddie, se mi guarda bene, già mi segreti, a fuori di lì, ma se non mi targa già è becca, non so, già è beccato io due intanto. Ma l'unica cosa è che non basta arrivare un 16, ci ma ne arriva in controvenzione. Ma a quell'ora lì passano verso le 7 e mezza, passano i barroncini. Ah, i barroncini, vuole fare prima, fare una venuta a studiare, la venuta, è che uno più tonto del lasso. Guarda, lascia perdere, la io stavo pensando che ci sono andato a quel paese, a Cielo Sud, che ci sono andato, perché lo sa. È gente che se non sa fare nulla, la mandano in sera e andare a fare il servizio, facciamo perdere, avanti tutto. Tutto arrabbiato, che tanto era mattessi goza. Hanno a fare la valucina che sono dei randaggi, ieri sono randaggi. I bimbi sono vedi, hanno passato un mese che hanno cambiato, non puoi suonare. A questa parte che buono per male. Ehi, chiatta. Cosa vuoi fare? Purtroppo anche loro sono così. Ecco, ne ho beccato una mattina, via Duomo, e non che era, boh, non so se erano 5 mesi la mattina, o le 6. Ha pegato il lampadone, quello era, non so se una pistola sulla capelli, così nel secco. Pensavo che ancora io sono ufficiale, appunto, tu sei ufficiale, devi dare esempio. Intanto sto chiamando l'ufficiale Balloncini, sto chiamando adesso, come dare esempio, dopo vediamo. Un reportello, la casa di Serena l'ha preso, una faccia a scafi proprio. E non lo sa che è così, ma se ne deve fare l'esempio, ma se ne deve giù. Per carità, io sono anticappato, ragazzi. Si sta prendendo i malati proprio, questa gente si è cappata, gente non sa cosa fare, non sa vivere, non va mica, non andare a nessun luogo, andare a fare baloncelli, ma così come si mettono al corpo, per il segno pure giù ai punti, anticappati, si nascondono la roba, capito? La roba buona si mettono a fare, hai capito? Purtroppo gli accattoni me ne sono bei, a quel paese avevo andato di quattro, hai capito? Fai un servizio, prendi le persone che stanno lavorando e le metti, le dà un tosso, le dai e ciccia, così là sono gente pensionata, sono a cattone muro, sono pure a cattone. Cosa vuoi fare? Purtroppo siamo così. Noi siamo così, siamo così. Noi questo è volontariato. Cosa fa volontariato? Che vi danno un tanto, la volontariato. Volontariato non più di nulla. Come se da cattone, gente, non preso, da cattone. Mi ricordo a me che hanno venuto i razzisti giù a Bagazzera. Un giorno ero con Guida, facevo il vetro. Ci siamo fermati 10 minuti, guarda. E si è fermato un continentale a buttare la Mondessa e loro erano di fronte a noi con una panda, l'hanno fatto gettare la Mondessa e poi si sono avvicinati e gli stavano mettendo verbale a Giovanni Vino Magno, c'è un carotto, non è che è andata per dire guarda, nulla a fare, gli dava del verbale, prima la fanno gettare, poi le volevo mettere verbale. È così che si fa, se no non c'è gusto, vuole orario, se no non c'è gusto no, far bagare. E questo qui non era neanche qua, questo era un desiderio, arriva a casa a Fontanieta in affitto, capito? Io stavo aspettando, nulla da fare, io mi ha già pensato, vedete proprio mi fate schifo, tu e lui fate schifo. E mi ha detto, lui non deve parlare, ma con lui non deve parlare così. A cattone, ha giudizio. E io ho detto, guarda, non fai nulla, se vuoi problemi, guarda, c'è il nome mio, guarda, metti il nome mio, metti, va avanti. E gli ho fatto i dati miei, non è pagare il verbale, non è pagare, fai ricorso e mi dai il nome mio, guarda, come testimone. Così imparano i buffoni, non so altri. Cioè, chi c'è le guardie azzurre? Ma non c'è l'idea. Ma a me non ha fatto niente, erano fermi, la gita da Bruno, guarda che ha fatto così due, erano fermi, lontani, questa macchina si è fermata, ha preso e ha buttato, non è gentilmente si sono avvicinati, spiegati, guarda a quest'ora, le solite cose, niente, nulla, non ha avuto sentire nulla. Dopo la gita l'hanno fatto buttare e poi l'hanno messo per male, capito? Io ho detto, fai la cortesia, lei non le paghi, faccio il ricorso e le altre dai dietro di me. Se ci sono problemi, chiedete, mi richiamano, va? Sì, cosa gli vuoi fare? Se ci sono proprio gente che non li già, se ci vai tu che ha lampato, dicini. Sì, vabbè, io ho un bel voce, io quando li vado a fermare, dico, guardi che non si può buttare, lei si legga l'orario, ti orai. Nelle case, non si può buttare, no, non si può buttare a quest'ora, neanche 5 minuti fa hanno scaricato e lei sta già buttando la Mondessa, è dalle 13 alle 10, alle 22 che si butta. Ma io non ho fatto nulla, capito? Ma non abbiamo detto a lei con la capo che ne frega, come fanno mal solito, voglia. Va, non si può fare, poi ci lamento, i cassoni pieni, i cassoni così, i cassoni là, no, i cassoni sono sporchi, perché non c'è un tempo neanche da fare perché sono sempre pieni. Infatti, vabbè Marisi, io ne approfitto che mi soccia, ci risentiamo domani se tutto andare. stammi bene, alle prossime, ok, ciao signor Marino. Ma a te, grazie per la piccola chiacchierata, sono tu in casa domani se coincide, va. Sono tu, ti do anche per me come retirare, ciao ciao. Ciao Marino.